2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 21 e 22 agosto 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast. Oggi in regia Valeria Bernardi. Vi ricordo che il nostro programma è disponibile anche con tutto l'archivio sul nostro sito internet www.radio24.it. Alcuni ascoltatori ci hanno fatto questa domanda proprio in questa settimana, quindi vi ricordo che nelle pagine di 2024 potete cercare tutte le puntate anche di qualche mese fa, anche dello scorso anno. Magari in queste giornate estive uno ha un po' più di tempo, può cercare gli argomenti al quali è più interessato e che sono andati in onda nelle scorse puntate. Prima dei nostri approfondimenti, la notizia più importante della settimana che riguarda la mega acquisizione di McAfee annunciata da Intel, che sborserà quasi 7,7 miliardi di dollari per il secondo più importante produttore di soluzioni per la sicurezza, come ad esempio gli antivirus, il secondo dopo Symantec, che rimane numero uno nel settore con una quota di mercato di circa un terzo. Alcuni giudicano l'acquisizione troppo onerosa, alcuni esperti del settore, anche alcuni analisti finanziari, una operazione troppo costosa per Intel che, pensate, riconoscerà agli azionisti di McAfee un premio del 60% sul prezzo delle azioni. Al Nasdaq, dopo l'annuncio, i titoli sono saliti del 57%, allineandosi al prezzo dell'offerta di 48 dollari per azione. As the world of connected computing continues to grow, we are adding security as one of the major focus areas for Intel, along with power and performance. Quella che sentite è la voce di Rini James, che è Senior Vice President di Intel e soprattutto responsabile del gruppo che lavora sul software all'interno dell'azienda. La James sarà responsabile anche della nuova divisione della società dedicata alla security, alla sicurezza, cioè McAfee, che con i suoi 6.000 dipendenti nel mondo rimarrà una linea di prodotto indipendente, ma naturalmente lavorerà a stretto contatto con gli ingegneri di Intel. Per fare che cosa, molti si domandano? Beh, vedremo sicuramente tra qualche mese concretamente come le due tecnologie verranno integrate. Intel ha detto che già c'è un'idea, già c'è un prodotto al quale le due aziende stanno lavorando, ma l'idea generale è quella di aumentare le performance delle piattaforme Intel combinando la potenza del silicio, quindi del microprocessore, con il software di sicurezza. In questo modo Intel sostiene che possa aumentare la sicurezza generale del sistema. Sicuramente la società cercherà di far leva anche sulla maggiore sicurezza dei prodotti futuri per aggredire nuovi mercati che si stanno creando, che stanno crescendo. Finora l'azienda, lo ricordiamo, è legata prevalentemente al mondo dei PC, dove copre l'80%, e non è ancora riuscita ad affermarsi in un settore, ad esempio, ricco e in forte crescita come quello degli smartphone. Ma in generale Intel guarda tutti gli strumenti che avranno bisogno nei prossimi anni di potenza di calcolo e connettività ad internet, dai bancomat alle automobili alle TV. In tutti questi prodotti, in generale nell'elettronica di consumo, ci sarà bisogno di processori potenti e forse anche più potenti di quelli che siamo abituati a vedere sui computer. L'esordio di Intel nel campo del software, tra l'altro questa acquisizione è anche una novità, perché è una grossa acquisizione in un campo non legato all'hardware, così come è la storia di Intel, ma legato al software. Dicevo, l'esordio di Intel nel campo software e nel segmento dei terminali mobili potrebbe essere con il Nokia N9 in arrivo alla fine dell'anno con il sistema operativo MeeGo, che è un nuovo sistema operativo che si affiancherebbe così a Symbian. Abbiamo parlato a febbraio, quando è stato dato l'annuncio, vedremo poi se questo sarà il primo prodotto e soprattutto come sarà questo sistema operativo. Due altri particolari prima di concludere su questa acquisizione. Per Intel si tratta della maggiore della sua storia, un'acquisizione che non comporterà molti costi di trasloco, diciamo così, o non tanti costi di mobilità per i manager, perché Intel e McAfee hanno entrambe sede a Santa Clara in California e distano circa un miglio l'una dall'altra. Oggi 2024 parliamo di tecnologie wireless, questo è un tema di cui ci occupiamo spesso 2024, ma parliamo anche di trasporti, di mezzi in movimento, per disegnare alcuni scenari e per raccontarvi di alcune tecnologie che già esistono, si possono utilizzare, che ci fanno capire che cosa potrebbe succedere in 1, 2, 3 anni, insomma nei prossimi anni anche in Italia. Saluto Enrico Carlin, che è presidente di una società che si chiama iTech, che si occupa in modo particolare di tecnologie senza fili. Benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Dicevo, voi vi occupate di tecnologie senza fili in senso lato. Lo scenario che vogliamo cominciare a dipingere, partendo poi anche da una soluzione che voi avete già costruito e che è già disponibile in Italia per alcuni particolari mezzi di trasporto, poi la raccontiamo e la descriviamo, è uno scenario che prevede che i mezzi di trasporto siano collegati ad internet, ma che siano collegati anche tra di loro, non o non solo attraverso la rete di telefonia mobile, cosa che in qualche modo già comincia ad accadere. Sappiamo insomma che ci sono alcune automobili che si possono connettere alla rete internet, ma invece lo scenario che voi guardate con attenzione qual è e su quale tecnologia si basa? Allora, diciamo che ci aspettiamo, sulla spinta di quello che sta succedendo ovviamente prima sempre negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, che così come oggi a livello abitazione siamo abituati a collegarci in maniera totalmente senza fili alla rete internet, questo avvenga anche a bordo dell'automobile, a bordo dei veicoli, a bordo di una barca, a bordo di uno yacht. Salvo il fatto che esiste anche la possibilità che questi mezzi di trasporto incominciano a comunicare tra di loro in modo praticamente automatico, e su questo tema sono i costruttori di automobili che sono pesantemente coinvolti e pesantemente interessati. La visione, che anche a livello europeo è ormai molto avanzata, è quella che esista un'infrastruttura a terra a banda larga, wireless, usando di fatto la stessa tecnologia del Wi-Fi che oggi conosciamo tutti, su canali, su bande dedicate a questo tipo di applicazione, e che i veicoli incominciano a parlarsi tra di loro, permettendo poi ovviamente anche a chi sta a bordo del veicolo di comunicare su internet, ma soprattutto incominciando a scambiare informazioni del traffico, lo stato del veicolo, la situazione di pericolo, lo stato delle condizioni meteo, dell'indice di scivolosità della strada, quindi tutta una serie di informazioni classicamente, come si dice in gergo, machine to machine, in questo caso nel senso più diretto del termine. Contemporaneamente, in un ambito che in questo momento è stato abbastanza lontano dal mondo della comunicazione diretta, non fosse altro perché di solito sono oggetti che si trovano in mezzo al mare, vale per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto, che incominciano a essere viste ancora di più di quanto non possa essere l'automobile come una seconda casa, e di conseguenza chi è proprietario di una barca di una certa dimensione ha bisogno delle stesse commodities che si trova nella propria abitazione. Sì, diciamo che la connessione ad internet è diventato, comunque sta diventando, una comodità che uno vuole utilizzare, sia che si trovi in vacanze, sia che si trovi in spiaggia o ad esempio in barca. Potremmo utilizzare la barca, l'imbarcazione, come esempio di cosa potrebbe succedere in altri ambiti. Sapete che Trenitalia o l'operatore alternativo che arriverà tra circa un anno e mezzo, un paio di anni in Italia a far concorrenza a Trenitalia sull'alta velocità, ha già annunciato una disponibilità di un servizio Wi-Fi a bordo della carrozza. La carrozza poi a sua volta si collega tramite la rete di telefonia mobile con una rete costruita sulla ferrovia. Lo scenario che voi invece immaginate, immagino, partirà da zone limitate che potrebbero essere ad esempio le autostrade o, nel caso delle imbarcazioni, che ne so, i porti. Esattamente. Quello che tutti i concessionari stradali e autostradali in Italia, ce ne sono un certo numero, pubblici e privati, stanno tutti incominciando a pensare di fare è quello di costruire questa infrastruttura fissa che permetta, che abiliti la comunicazione non soltanto tra veicolo e veicolo, ma tra veicolo e terra e la rete fissa fondamentalmente. Quindi veicolo e internet. Sostanzialmente sì, anche in questo caso, perché quello che tutti si aspettano è che dai veicoli incominciano ad arrivare una grossa mole di dati, sia quelli che chi guida difficilmente può generare mentre sta guidando, ma chi è a bordo, passeggeri, la famiglia, bambini, ma ancora soprattutto quello che può arrivare direttamente in modo semiautomatico dal veicolo, e quindi tutta una serie di parametri che permettono poi di decidere ai proprietari dell'infrastruttura autostradale come gestire il traffico, per esempio, o come gestire certe condizioni di pericolo o di congestione. Quindi l'idea sarebbe quella di fare trasformare l'autostrada in un grande hotspot. Assolutamente sì. Con tecnologia Wi-Fi. Sempre, da un punto di vista tecnologico puro è esattamente la stessa cosa, gli stessi sistemi di modulazione, lo stesso tipo di radio. L'unica cosa che cambia è la banda, cioè la frequenza a cui opera. Oggi il Wi-Fi notoriamente viaggia su frequenze di un certo tipo, il sistema di trasporto a livello europeo e anche a livello statunitense è stato definito, allocato in una certa banda dello spettro. A parte questo, nessuna differenza. Giusto per fare un esempio, voi avete costruito una sorta di valigia con le antenne che genera un hotspot all'interno della barca. Questo potrebbe essere un prototipo di quello che potremo tra qualche anno avere, magari senza vederla, sulle nostre automobili. Diciamo molto brevemente di che cosa stiamo parlando. Allora, sostanzialmente abbiamo un apparato di rete che può essere visto assolutamente paragonabile in termini logici all'apparato che abbiamo in casa, che ci permette di navigare su internet, quindi un qualcosa che ci permette di collegarci wifi a lui e tramite lui collegato a internet attraverso il sistema di banda larga che io oggi ho a disposizione a casa. In questo caso il sistema funziona esattamente allo stesso modo, al di là di quelle che possono essere le capacità funzionali che sono molto più grandi, collegando wifi qualsiasi oggetto a bordo della barca, ma anche di un qualsiasi altro veicolo, e poi scegliendo il miglior sistema di connessione disponibile in questo momento tra connessione satellitare, perché sulle barche in mezzo al mare solo quello c'è, connessione alla rete di un operatore mobile e connessione a banda larga su un operatore wifi che tendenzialmente di solito sta nel prossimità del porto, nell'ordine di qualche decina di chilometri attorno al porto. Quindi questa valigia, che una volta accesa fa un hotspot sulla barca, poi dopodiché si collega. Esattamente. A proposito di satellite, siete soddisfatti delle prestazioni dei satelliti, dei nuovi servizi a banda larga dei satelliti? Certo. Visto che che anche in questo caso a bordo di una barca in mezzo al mare non c'è molto da fare. Quindi purtroppo. Ci si accontenta anche se comunque la qualità del servizio è buona in termini di banda, riusciamo ad arrivare a una banda media di 2 megabit senza grossi problemi, che incomincia è ragionevolmente accettabile. Il tempo di latenza, quindi il tempo che il segnale sale fino al satellite, riscende fino a terra, è un po' elevato, ma anche questo riesce a essere gestito abbastanza bene. L'unico vero grosso problema è ancora il costo. Oggi questo tipo di sistema se lo possono permettere soltanto quelli che hanno le barche grosse. Quelli che hanno le barche grosse o soprattutto chi ha una buona ragione per farlo in termini di attività professionale. Poi sappiamo che i vari operatori, che sono fondamentalmente due, Eutelsat ed Astra, hanno lanciato servizi residenziali, ma qua stiamo parlando di altra cosa rispetto ai servizi di cui stiamo parlando, perché un conto è avere la possibilità di installare un apparato piuttosto grande con la parabola sul tetto di una casa, un conto è gestire tutto su una barca. Se parliamo invece di zone molto più vicine alla costa o addirittura al porto, laddove c'è il wifi abbiamo capito che la soluzione è collegarsi al wifi, altrimenti si sfrutta l'operatore mobile quindi. Anche perché in questo caso che il problema che oggi esiste a bordo comunque dei veicoli in movimento è il fatto che non c'è un meccanismo di integrazione tra le varie modalità di connessione, e quindi ci vuole qualcosa che dica bene, adesso sono nella disponibilità di una connessione che è più veloce o meno costosa, e in funzione di alcune regole di priorità scelgo in modo automatico quello che oggi viene fatto in realtà assolutamente manualmente. Quindi chi oggi ha questo tipo di connessioni deve fisicamente dire adesso mi collego al satellite, adesso mi collego all'operatore mobile, adesso mi collego al wifi. Con questi sistemi si può fare tutto automaticamente. L'altro discorso è la connessione attraverso l'operatore l'operatore mobile, diventa interessante perché in prospettiva a quelle che saranno anche qui le nuove tecnologie che arriveranno, avrà delle larghezze di banda paragonabili a quelle del Wi-Fi e è auspicabile, se non prevedibile, che nel futuro anche gli operatori mobili incomincino ad andare su tariffe non più a tempo o a numero di byte trasferiti, ma che incominciano a diventare delle tariffe flat rate come oggi abbiamo sulla connettività internet a casa. Sì, forse dovremmo aspettare 3, 4, forse 5 anni per la tecnologia che abbiamo raccontato e descritto, che si chiama LTE, Long Term Evolution, ma insomma qua stiamo parlando di un futuro un po' remoto purtroppo. Un'ultima domanda, noi abbiamo fatto l'esempio della barca, diciamo che se questo aggeggio, questa valigia con le antenne, io me la porto in spiaggia, faccio un hotspot in spiaggia. Volendo sì, anche se poi sarebbe da capire che significato ha, ma per esempio in caso di eventi o in caso di situazioni di aggregazioni di persone, meccanismi di coinvolgimenti sociali, un concerto, un torneo di beach volley, assolutamente, cioè, tranquillamente, senza nessun problema. Bene, io ringrazio Enrico Carlin di iTech per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci. Questo è 2024, adesso per noi c'è una breve pausa, ci risentiamo tra un minuto. Bentornati a 2024, io sono Enrico Pagliarini e ricordate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Molti sono gli ascoltatori che si sono abbonati, che si abbonano settimana dopo settimana. In questo modo avrete la possibilità, con i software in grado di gestire il podcast, di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione in maniera automatica settimana dopo settimana. Alcuni dei nostri ascoltatori ci hanno scritto nei primi mesi dell'anno, soprattutto nei primi mesi dell'anno, raccontandoci dei disagi che hanno avuto nell'attivazione di una linea ADSL. Le richieste erano state fatte da zone coperte dal servizio, ma la risposta di Telecom Italia e di altri operatori era stata negativa per la saturazione delle centrali alle quali arrivano le linee. Alcuni ascoltatori erano proprio sorpresi perché dicevano: il mio vicino di casa ha la DSL, non capisco come mai io non posso averla. Perché le centrali erano sature e oltre ad un certo numero di linee non possono ospitare. Allora, Telecom Italia ha annunciato questa settimana che potenzierà entro fine anno 300 delle 500 centrali per internet ADSL, dove appunto per raggiunta saturazione degli impianti all'inizio dell'anno era stata chiusa l'attivazione di linee per i nuovi clienti. In questo modo Telecom tenta anche di sedare, diciamo così, le critiche che erano state inviate da Vodafone, Wind Infostrada, Fastweb e BT Italia, che avevano chiesto l'intervento delle autorità. Secondo i dati di un'istruttoria che si è conclusa da una decina di giorni, nella prima decade di agosto, Telecom Italia aveva chiuso all'attivazione di nuove linee 518 centrali che servono un bacino di 1 milione di utenti, circa il 9% del bacino nazionale di internet su rete fissa a banda larga ADSL. Queste quindi le notizie di questa settimana, dovremo però aspettare appunto i prossimi mesi tra l'autunno e la prima parte dell'inverno. In questa puntata di 2024 vogliamo parlare del dietro le quinte di internet. È una cosa che ogni tanto facciamo per capire come la rete internet si sta trasformando, come si è già trasformata negli ultimi anni e che cosa sta appunto dietro a azioni quotidiane che noi facciamo. Magari vediamo un video sulla rete oppure leggiamo cose, guardiamo fotografie, ma dietro succedono un sacco di cose molto particolari e anche molto interessanti. Saluto Luca Collacciani, che è responsabile per l'Italia di una società americana molto grande e molto importante per il funzionamento della rete internet, che si chiama Akamai con la K. Benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno. Partiamo proprio dal nome e già cominciamo a capire un po' di cose anche dalla storia di Akamai, che significa? Akamai significa intelligente, è nella lingua hawaiana, quindi intelligente perché ha degli algoritmi che permettono comunque di far viaggiare attraverso la nostra rete le informazioni nella maniera più veloce ed efficace possibile. Voi, dicevo, siete un'azienda importante per il funzionamento della rete internet, perché diamo subito un dato così per far capire. Un quinto dei dati, soprattutto video, immagini, comunque contenuti in generale, anche audio immagino, sì, che transitano sulla rete internet, che noi utilizziamo sul nostro computer, viene erogato dalle vostre macchine, dai vostri computer. Corretto. Che significa questo? Quindi il 20% del traffico mondiale, come appunto detto, viene erogato alle nostre macchine. Akamai è un content delivery network. Content delivery network significa aiutare a distribuire i contenuti sul web in tutto il mondo nella maniera più veloce possibile. Quindi... Perché il problema della rete internet è che sì, è vero che tutto è collegato, però le distanze ci sono e quindi è bene arrivare vicino all'utente finale, giusto? Quindi come funziona il vostro sistema? Akamai è una rete distribuita di 65.000 server al mondo, è la rete distribuita di server più grande al mondo e permette di erogare i contenuti del web, quindi siano esso un filmato, magari in streaming, sia esso un sito oppure un'animazione in flash, da un server che è posto nell'ISP locale. Quindi facciamo un utente italiano che si collega da Roma e è dentro la rete Telecom Italia. Tutti i contenuti, non so, magari della Rai, dello streaming, verranno forniti da un server di Akamai che è nella rete di Telecom Italia. Quindi il 20% degli italiani riceve comunque queste informazioni attraverso internet da Akamai. Quindi voi siete con questi 65.000 grandi computer distribuiti in rete praticamente in quasi tutti, se non in tutti, i fornitori di connettività internet del mondo. Corretto. Facciamo questo esempio, continuiamo su questo esempio che tu hai fatto della Rai. Voi avete come clienti grandissime aziende in tutto il mondo, Rai è un vostro cliente in Italia. Che cosa succede quando io digito rai.tv e magari voglio vedere un video? Sì, diciamo la Rai è uno dei nostri clienti più rappresentativi al mondo, poiché ha utilizzato per prima al mondo, quindi davanti ai clienti, la tecnologia di streaming adattativo sviluppata insieme a Microsoft. Questa tecnologia di streaming permette la visione di video nella maniera più fluida possibile. Questo cosa significa? Che si adatta sia alla velocità del processore dell'utente finale, sia alla connettività dell'utente finale. Quindi se qualcuno ha una macchina poco potente e una connettività molto bassa, vedrà il filmato a una risoluzione molto bassa, mentre se qualcuno magari è collegato in una città, Milano, Roma, e quindi a disposizione, non so, 20 megabit al secondo di banda, potrà fruire del video a una qualità, non so, magari simile anche al DVD. Tu hai citato 20 megabit al secondo di banda e sorridi giustamente perché sono pochi quelli che ce l'hanno. Poi parliamo, sì, anche della capacità delle reti italiane. Voi avete queste macchine distribuite in tutto il mondo, avete anche delle reti fisiche, cioè avete della fibra ottica sparsa in tutto il mondo oppure no? No, fibra ottica no, poiché appunto i nostri server sono nei grandi ISP, sono magari anche, non so, nel Verizon, AT&T, sono in Telecom Italia, in Fastweb e così via. Quindi i nostri server sono dove sono gli utenti finali. Noi vogliamo essere il più vicino possibile all'internauta, quindi nell'ultimo miglio, perché in questo modo riusciamo a utilizzare, a neutralizzare la latenza su internet, che è uno dei problemi più grandi. Ecco, quindi diciamo che il sistema che 11 anni fa si sono inventati i fondatori di Akamai serve per superare le distanze fondamentalmente, cioè il problema della rete è un problema di distanze? Sì, è un problema di distanza, perché più che altro magari un'azienda italiana che ha un data center qui in Italia e vuole, non so, e vuole servire gli utenti, servire nel senso vuole che il proprio brand sia comunicato in maniera efficace su internet in Australia, in Nord America oppure Giappone, ha due possibilità. Uno, replicare i data center, quindi aprire un data center in Giappone, in Nord America e in Australia. Un altro è, per così dire, posizionare i propri contenuti su questi nostri server e quindi, per così dire, replicare il contenuto in maniera vicino all'utente e così che la fruizione sia più immediata. Quando parlo con chi si occupa delle reti, del traffico della rete internet, molti mi dicono sta crescendo questo traffico soprattutto grazie o a causa del video. Sì. Risulta anche a voi? Sì, corretto. Adesso uno dei trend nei prossimi anni sarà l'adozione del video in HD. Purtroppo internet non è stata progettata per la visione dei video e questo è uno dei problemi che Akamai vuole risolvere. Il video in HD... Alta definizione. Alta definizione, sì. Il video quindi in alta definizione nei prossimi anni sarà qualcosa di molto importante. Infatti sarà sia per gli eventi in diretta, sia per gli eventi on demand, quindi in differita, registrati sul web. E questo farà crescere il traffico di circa 500 volte nei prossimi 2-3 anni. 500 volte quindi a livello mondiale di internet. Prima il problema era che non c'erano contenuti in alta definizione, adesso comunque le major iniziano a investire, gli schermi iniziano a essere più grandi, internet inizia a essere fruito in maniera diversa, quindi non solo su un laptop, magari anche sulla televisione, quindi schermi grandi hanno bisogno di risoluzioni più alte. Quindi anche per questo motivo che, ma questa è una cosa che non, o comunque vi riguarda in parte, che in tutto il mondo si discute, alcuni stati lo stanno facendo, altri come noi stanno solo a guardare, si discute dell'aumento della capacità delle reti internet. Sì, corretto, questo è uno dei problemi che vediamo al momento, perché appunto quello che sta fermando un pochino la diffusione dei video in alta definizione è appunto la connettività. Qui in Italia, come sappiamo anche dal nostro rapporto sullo stato di internet, non siamo molto avanti rispetto ad altri paesi europei, anzi diciamo ci collochiamo agli ultimi posti della classifica europea, e questo è un problema che dovrà essere risolto, credo, dai nostri Sì, diciamo che se guardiamo la classifica e la confrontiamo con lo schema della Serie A, siamo nella seconda parte. Sì, diciamo che sì, lottiamo per la salvezza. Parte destra. Sì. Senti, a proposito di Inter, voi realizzate ogni trimestre, se non sbaglio, sì, un rapporto che si chiama Lo Stato della Rete Internet. Al di là del nostro paese, poi veniamo al nostro paese, però volevo capire nel mondo. Quali sono i paesi dove voi vedete delle performance della rete internet tra le più elevate? Sì, ci sono due zone al mondo che sono particolarmente veloci per quanto riguarda internet. Uno è la zona asiatica, e stiamo parlando di Corea del Sud e Giappone, Hong Kong, che hanno connessioni che vanno da 8 megabit al secondo in media a 7.5 megabit al secondo, quindi molto molto più alte rispetto a quanto abbiamo qui in Italia, circa 3 volte più alto. Quindi queste sono velocità medie vere? Vere, sì, perché comunque sono registrate sui contenuti che noi serviamo agli utenti, quindi non sono percepite o statistiche, ma sono proprio vere. Che non sono neanche, diciamo, messaggi marketing degli operatori che dicono arriverai a 20 megabit, eccetera. No, corretto. Ok. Qui in Europa la penisola scandinava registra le velocità più alte, quindi Svezia, Norvegia, Finlandia, Olanda, Danimarca. L'Italia è un po' indietro in questa classifica, quindi non facciamo una buona figura, però anche gli Stati Uniti, che comunque sono i paesi... Questo è un dato interessante, cioè gli Stati Uniti non sono citati in queste due aree. Cioè non sono corretto, tra i primi. Corretto, perché gli Stati Uniti in questa particolare classifica sono intorno al 35esimo posto, questo perché hanno comunque adottato una politica diversa rispetto ai fornitori di banda. C'è un mercato aperto, libero, concorrenza, e non ci sono sussidi a parte dello Stato, e questo forse in qualche modo ha, per così dire, impedito la diffusione. Questo è interessante, cioè laddove lo Stato, quindi Giappone, Corea, Hong Kong, paesi scandinavi, interviene pesantemente per la costruzione delle reti in fibra ottica, internet è più veloce. Stiamo parlando di che cosa? Di velocità in questo caso? Sì, velocità, quindi megabit al secondo. E se guardiamo la diffusione della rete internet, a che punto siamo in Italia? Anche in questo caso ho visto classifiche che ci danno non in ottima posizione, e vedo che i paesi del nord Europa sono quelli dove la percentuale di persone collegate alla rete internet è più elevata. Corretto, come quindi penetrazione, quindi della banda in Italia, siamo in circa al 16esimo posto in Europa, quindi su 30 paesi presi in considerazione, e questo è un dato che magari si riflette anche sul commercio su internet, quindi il famoso e-commerce, perché l'Italia è un fanalino di coda per l'e-commerce, perché comunque siamo in questo caso 24esimi in questa classifica su 30 paesi europei, quindi... Sicuramente, non so, non ci sono al momento prospettive per una proliferazione dell'e-commerce qui in Italia. Sì, questo sicuramente non è un buon dato. C'è un altro dato interessante, poi difficile capirne le ragioni vere e proprie. Voi guardate anche lo stato di sicurezza della rete internet, e anche qua noi non è che facciamo una gran bella figura. Oppure, se fossimo nella classifica dei più cattivi, saremmo tra i primi. Ragione, perché infatti l'Italia appare in questa ingloriosa top 10, per così dire, tra le nazioni più attive nella diffusione di worm e virus, e si colloca al quinto posto. Quindi non è un bel dato. Quali sono i primi stati nella classifica? Sono Russia, Brasile, Stati Uniti e Cina. Quindi dobbiamo considerare che Stati Uniti e Cina al momento hanno il 40% del traffico internet mondiale combinato. Quindi è logico che siano tra i primi in questa classifica. Sì, HMI, questa la sicurezza è qualcosa a cui guarda con particolare attenzione. Abbiamo seguito ultimamente i cyberattacchi dalla Cina e quindi a Google. Ancora non so, è qualcosa da definire, perché se un paese bombarda un altro è un atto di guerra. Se un paese attacca un altro su internet, cos'è? Questo è vero. Bella domanda. Anche questo potrebbe essere considerato una guerra informatica, che non fa morti, però fa dei danni piuttosto ingenti, piuttosto importanti. Bene, io ringrazio Luca Collaciani per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie, buona giornata. E così concludiamo questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Grazie anche a Valeria Bernardi in regia. Tra poco questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24 in formato MP3 su www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo anche la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio tra le 16 e le 16.30 o la domenica alla sera tra le 20.30 e le 21. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.